di Simone Spezia. Nel giorno del vertice tra Europa e Turchia sui migranti, il nostro racconto dal confine tra Grecia e Macedonia, 13.000 persone al momento sulla frontiera. Arriveranno forse oggi in Italia i corpi dei due tecnici italiani uccisi in Libia. Il presidente del Copasir stucchia Radio 24, su questa vicenda convocheremo Renzi. Volevamo vedere com'è uccidere qualcuno, il racconto di uno degli assassini del ragazzo di 23 anni a Roma durante un festino. Dobbiamo avere fiducia, il nostro paese ha le risorse per farcela, dice il presidente Mattarella alla consegna dei premi Leonardo per il Made in Italy. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e anche per i messaggi su WhatsApp e l'email effettogiorno@radio24.it. Tra l'altro nel corso della trasmissione ci occuperemo anche di altri due fatti, arrivano entrambi da Caserta, la vicenda della Reggia, non tanto per le critiche che sono arrivate, ne avrete letto nel fine settimana, che riguardano il direttore al quale è stato destinato un comunicato da parte dei sindacati nel quale lo si accusa sostanzialmente di lavorare troppo, e dall'altra parte, ma per la vicenda di una sorta di affittopoli all'interno del parco della stessa Reggia di Caserta, insomma gente che occupa case per poche decine di euro, e poi anche l'arresto del sindaco di Maddaloni per tangenti. Ma andiamo con ordine, iniziamo dunque dalla giornata nella quale Europa e Turchia si riuniscono per discutere delle questioni che riguardano l'enorme flusso di migranti che sta investendo le coste europee. La situazione resta critica ai confini del nostro continente, dunque apriamo questa puntata di Effetto Giorno andando esattamente là. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. E questa settimana appunto abbiamo deciso di dedicare un viaggio di informazione al luogo che è stato l'epicentro della crisi finanziaria europea e che ora è l'epicentro della crisi dei migranti, ossia appunto la Grecia, con appuntamenti in varie trasmissioni. È un viaggio che si snoderà attraverso i racconti sul campo e quelli dalla capitale Atene. Oggi siamo ad Idomeni, al confine con la Macedonia, dove sono ormai 13.000 le persone ammassate, mentre solo pochissime passano, un centinaio al giorno, mentre ne arrivano circa 50 ogni ora. Tra poco ci collegheremo con la nostra inviata Valentina Furlanetto, ma prima sentiamo il suo racconto. Scappare dall'inferno in Siria e ritrovarsi all'inferno a Idomeni, nel limbo di fango, rifiuti, paura, che è diventato questo campo profughi, costruito per 1200 persone e ora ospita 13.000 migranti che hanno passato la notte in tende di fortuna, con un vento gelido che arriva dalla Macedonia a fianco a fuochi appiccati con legna e ma anche materiale vario. Infatti nell'aria c'è un odore acre che resiste, entra nei polmoni, molte le infezioni respiratorie, ci segnala Medici Senza Frontiere. Le ONG distribuiscono fino a 37.000 pasti al giorno, ma le tende, le coperte, i pasti non bastano mai, e c'è chi ha già il rimpianto di quello che ha lasciato. Se avessi saputo che era così l'Europa non sarei mai partita, dice Medea, 23 anni, di Damasco, ma ormai non posso più tornare indietro, ho finito tutti i miei soldi. E poi c'è Waid, che viene da Ilib, a 17 anni. Maybe we are going to Albania and go to Germany. But we can't return to Syria, no way. Se non apriranno il confine con la Macedonia andremo attraverso l'Albania. Dobbiamo arrivare in Germania, dice, non torneremo in Siria, no, assolutamente. 13.000 anime bloccate qui in questo limbo che sperano e guardano a Bruxelles perché si decida del loro destino. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Idomeni. E restiamo proprio ad Idomeni e restiamo sempre con la nostra Valentina Furlanetto, per, dopo aver sentito il suo racconto di com'è la situazione là, vogliamo sentire com'è in questo esatto momento. Valentina, eccoci, vai. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. In questo momento c'è un vento ancora più freddo che sta spazzando questa pianura, una distesa di tende interminabile. Ci sono alcune, circa un centinaio di tende delle UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, ma soprattutto tende portate da volontari, gente comune greca che viene a portare dei beni di fortuna, tende che sono state comprate dai migranti con gli ultimi soldi che hanno in tasca. Una distesa infinita in mezzo al fango, come potete immaginare, in mezzo a questi fumi di cui parlavo. Si accendono i fuochi non soltanto per scaldarsi la sera, ma anche per cucinare, per scaldare l'acqua, per lavarsi. Ci sono delle docce di fortuna fatte con delle coperte, insomma siamo piombati il Medioevo a un passo dall'Europa, siamo in Grecia, quindi ancora siamo in Europa, però al confine con la Macedonia. Davanti a me proprio la recinzione che è stata eretta dalle autorità macedoni di un metro e mezzo di altezza con filo spinato, viene chiusa, aperta, singhiozzo durante la giornata, le persone che sono qui aspettano, ci hanno anche mostrato i documenti ma non riescono a passare, tra l'altro la selezione per nazionalità è abbastanza arbitraria a seconda del funzionario che si incrocia, ma non passano più di 100-150 persone al giorno, quindi diventa un imbuto chiaramente qui di persone che continuano ad arrivare dalle isole dell'Egeo, da Atene. Continuano ad arrivare, tra l'altro, Valentina, ad un ritmo molto alto. Molto altro, si calcola appunto che siano 150 le persone che arrivano in un'ora. Noi abbiamo visto poco fa proprio un gruppo di queste persone in marcia che arrivavano da Policastro, che è la città più vicina, ovviamente a piedi, con dei bambini, con sacchi sulle spalle, anche un'anziana in carrozzina. Una situazione davvero disperata che l'UNHCR, responsabile del campo con cui abbiamo parlato poco fa, qui il signor Bavard Baloccio definiva catastrofica, si augurava appunto che oggi a Bruxelles siano prese delle decisioni per cercare di lenire anche la sofferenza delle persone qui. Molti sono bambini, 37% sono bambini, bambini e donne rappresentano il 60% dei migranti qui e molti hanno delle infezioni ai polmoni, molti stanno male e Medici Senza Frontiere, l'UNHCR, tutte le associazioni qui stanno cercando di fare del loro meglio, ma chiaramente la situazione è molto difficile. Grazie, grazie a Valentina Furlanetto. Grazie. E ovviamente continueremo a raccontarvi tutto questo anche nei prossimi giorni e non solamente da idomeni. Nel frattempo ci sono da registrare da Bruxelles le dichiarazioni del premier turco Ahmet Davutoglu, che dice la Turchia è pronta a lavorare con l'Europa, la Turchia è pronta ad essere un membro dell'Europa e spero che questo vertice, che non si focalizzerà solo sull'immigrazione irregolare ma anche sull'adesione della Turchia all'Europa, sia un successo ed un punto di svolta nelle nostre relazioni. Del vertice torneremo a parlare come sempre in Europa 24. È salito ad almeno 28 morti, siamo a quello che succede al confine tra Libia e Tunisia, il bilancio degli scontri tra l'esercito tunisino e i militanti dell'ISIS, è quello che riferisce il Ministero della Difesa, precisando che tra le vittime, oltre a diversi jihadisti, ci sono anche civili, almeno 4 e 2 militari. E forse dalla Libia potrebbero arrivare oggi i corpi dei 2 tecnici della Bonatti che hanno perso la vita nei giorni scorsi. L'attesa per le famiglie di Salvatore Failla e Fausto Piano potrebbe finire oggi. I corpi dei 2 tecnici uccisi in Libia potrebbero rientrare in Italia nel pomeriggio. Al momento si trovano ancora a Sormana, nei pressi di Sabrata, ma è molto probabile che il rimpatrio avvenga oggi, ha dichiarato il sindaco di Sabrata, Al-Zawadi. Sormana dista meno di 10 chilometri da Sabrata. Le milizie dell'una e dell'altra cittadina sono state impegnate nello scontro a fuoco in cui hanno perso la vita i 2 connazionali. Il sindaco ha specificato che i tecnici uccisi sono stati colpiti durante un attacco in cui sono morte altre 7 persone. Per questo abbiamo insistito per fare in Libia gli esami sui corpi, ha spiegato Al-Zawadi. L'esatta dinamica dei fatti però è ancora tutta da ricostruire. Le uniche certezze sono arrivate dai racconti di Gino Pollicardo e Filippo Calcagno nelle testimonianze rese al PM. I 4 italiani sono sempre stati assieme, nascosti nei pressi di Sabrata, picchiati e malnutriti, forse mai ceduti a gruppi diversi. Separati tra loro solo martedì, così Gino Pollicardo. Loro sono entrati dicendoci che era tutto finito, poi hanno preso Salvatore e Fausto e a noi ci hanno lasciato là dentro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di queste vicende ha parlato anche il presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, Giacomo Stucchi, intervenuto questa mattina ospite di Giovanni Minoli, Mix 24. Con l'articolo 7 bis Renzi in qualche modo si trova a essere nella posizione di un comandante in capo. Voi lo convocherete al COPASIR per farvi spiegare i vari passaggi? Abbiamo anticipato al sottosegretario Minniti proprio durante l'ultima riunione di giovedì scorso, quella fatta a seguito dei tragici eventi in cui sono morti 2 nostri connazionali in Libia, che il comitato aveva intenzione di convocare il presidente Renzi nelle prossime settimane. Insomma, sarà disponibile, però non in tempo lunghissimo. Ecco, ma che cosa gli chiederete? Ma abbiamo una serie di questioni, della verità, da affrontare, non solamente quella. Quindi Comunque, diciamo, la notizia è che il presidente Renzi viene convocato al Copasir per dare spiegazioni, per rispondere alle domande. È così? Abbiamo anticipato che abbiamo intenzione di convocarlo, ripeto, non solo su questa questione. Certo. E in campo ci sono altre questioni politiche oltre a quella che riguarda la Libia, ossia le primarie che si sono svolte ieri a Roma, Napoli e in molte altre città, ma evidentemente Roma e Napoli sono quelle principali. Vediamo di fare un punto generale e sulla capitale con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Il dato positivo per il premier Matteo Renzi è che vincono i candidati renziani, rilevando percentuali molto simili a quelli della segreteria nazionale DEM, divisa tra maggioranza e opposizione. A Roma Roberto Giachetti conquista il 64% dei voti nelle primarie, dietro il candidato della sinistra Roberto Morassut con il 28,3%. Ignazio Marino nel 2013 si era fermato al 49,7%. Il dato negativo per Renzi è invece il crollo dell'affluenza a Roma, da 100.000 votanti si è passati a meno di 50.000, per cui la strada per il candidato sindaco Dem è tutta in salita. Un calo fisiologico per il presidente della regione, il democratico Nicola Zingaretti, che promette il futuro sindaco troverà una città diversa anche grazie al lavoro della regione. Intanto la candidata del Movimento 5 Stelle a Roma attacca Virginia Raggi, dice che è una faccia più o meno nuova quella di Giachetti, il nuovo terminale di un partito che ha mostrato quali sono tutti i suoi fallimenti. Ma il neo candidato sindaco Dem non si scoraggia, chiede al PD di candidare pensioni pulite e come primo atto Giachetti si reca oggi sulla tomba di Luigi Petroselli, ex sindaco PC dal 79 alla morte nell'81, ricordato come uno dei primi cittadini più popolari nella capitale. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Come si diceva, anche a Napoli passa la candidata renziana, mentre i segnali di affluenza sono stati decisamente migliori rispetto a quelli romani. La nostra inviata Annarita D'Ambrosio. Annarita, eccoci. Sì Simone, sono stati, come dicevi, da studio risultati sull'affluenza più che positivi e quindi il partito oggi commenta soddisfatto questi dati dell'affluenza che hanno doppiato quelli delle ultime regionali. C'è da dire che alle ultime regionali a Napoli città il candidato De Luca, più legato alla città di Salerno, aveva evidentemente meno invogliato al voto. Il dato dell'affluenza di ieri è stato più che positivo, ha superato le 30.000 unità. Il partito è un po' meno soddisfatto per il debutto dell'app Antibrogli, che avrebbe dovuto garantire risultati molto rapidamente, e questo non è accaduto perché i risultati sono arrivati solo poco prima di mezzanotte e perché 10 dei 78 computer si sono tra l'altro incettati e quindi si è poi adottato il vecchio sistema cartaceo. I primi commenti sono arrivati da De Luca, proprio da De Luca, dal presidente della regione questa mattina, di risultato molto positivo ha parlato De Luca, sia come risultato quello della Valente, che era sostenuto da tutti i vertici regionali e locali del partito, e sia per l'affluenza. Si aspettano ora le mosse di Bassolino, la differenza è veramente esigua, 458 voti, quelli di Bassolino in meno rispetto alla Valente, dunque un Bassolino che ha preso più di 12.000 voti, un Bassolino che continua a contare molto in città e che dunque probabilmente dirà la sua. Noi abbiamo cercato anche di contattarlo questa mattina, ma al momento è in una fase di riflessione. Ci troviamo nella sede del Comune perché tra pochissimo parlerà il sindaco di Magistris, che ora conosce il nome della sua avversaria. Per il momento è tutto. Grazie Annarita D'Ambrosio per questo aggiornamento e vedremo che cosa avrà dunque da dire anche De Magistris. Noi restiamo in Campania e ci spostiamo, come si diceva, su quello che riguarda la Reggia di Caserta. Tante polemiche nelle ultime 48 ore per quel comunicato dei sindacati nel quale sostanzialmente si accusava il direttore di lavorare troppo e di lavorare fino a tardi, ma intanto oggi emerge qualcos'altro, emerge se non un affittopoli, qualcosa che ci assomiglia molto. Più che un caso affittopoli, quella dei 12 alloggi della Reggia di Caserta potrebbe essere definita una occupazione. Sì, perché dai controlli amministrativi effettuati a partire dal maggio 2014 emerge che almeno nell'ultimo anno e mezzo gli occupanti non avrebbero titolo a vivere in ambienti del complesso vavitelliano. La questione è anche oggetto di un'inchiesta della Procura della Corte dei Conti. Parliamo di alcuni alloggi situati all'interno del parco, altri nel Palazzo Reale, di grandezza variabile, tra i 100 e i 200 metri quadrati, per i quali attualmente gli occupanti occupanti, in buona parte parenti di ex dipendenti della Reggia, qualcuno anche deceduto, pagano cifre irrisorie a partire dai 60 fino a poco più di 100 euro. Per il passato si è parlato anche di somme più basse. In origine si trattava di una locazione a persone che avevano diritto ad un alloggio di servizio, ma con gli anni la situazione è evidentemente cambiata, proprio come la gestione del bene, passata dall'amministrazione del demanio a quella della sovrintendenza e dal 2014 al Polo Museale di Napoli. L'aggiornamento dell'indennità di occupazione comunicata dal responsabile del procedimento Leonardo Ancona, con intimazione a lasciare gli alloggi entro dicembre 2015, parla di cifre che variano tra 400 e 900 euro circa. Già alle prime richieste della nuova gestione la reazione era stata il ricorso al TAR. Al momento solo uno dei 12 alloggi è stato liberato. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. A proposito della Reggia di Caserta, qualcuno mi scrive su Twitter: occhio che non tutti i sindacati hanno firmato quel comunicato, il comunicato incriminato del quale si sta discutendo in queste ore. È vero, sono stati solamente 3 sindacati, anzi molti sindacati, soprattutto quelli nazionali, si sono dissociati. Passiamo a parlare di Made in Italy, perché al Quirinale è in corso la cerimonia di consegna dei tradizionali premi Leonardo, i riconoscimenti conferiti alle eccellenze italiane dal Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella sta seguendo la cerimonia. Vincenzo Miglietta, Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno. Cerimonia terminata da pochi istanti. Premi Leonardo 2015, Simone, che vanno a quegli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo ad affermare e consolidare il Made in Italy nel mondo. 6 allora i premiati quest'anno: Ermenegildo Zegna, amministratore delegato del gruppo Zegna, Ahmad Farfullah, presidente della Camera di Commercio Italo-Iraniana, e poi i premi qualità: Davide Campari, Vittorio Livi, Alberto Vacchi, Giovanni Rana e Silvano Pedrollo. Dal Presidente della Repubblica Mattarella l'invito alle imprese ad avere fiducia nella crescita. Un anno trascorso al Quirinale, ha detto il Capo dello Stato, ha rafforzato la mia convinzione che l'Italia disponga di risorse straordinarie che costituiscono un ponte prezioso verso il futuro. Ma ascoltiamo le parole di Mattarella. L'uscita dalla recessione apre possibilità di crescita sulle quali l'intero Paese, il sistema Italia, è chiamato a misurarsi, individuando il bene comune tra legittimi interessi, talvolta tra loro in competizione. La via di uno sviluppo sostenibile e duraturo è praticabile, ma dobbiamo essere consapevoli che l'uscita dalla crisi avviene nel contesto di una nuova rivoluzione industriale. Siamo di fronte ad un cambiamento d'epoca, ha aggiunto il presidente di Confindustria Squinzi, che richiede il coinvolgimento di tutti in un impegno condiviso per la crescita e lo sviluppo complessivo del Paese. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Saluto intanto Federica Angeli, che è una giornalista, una cronista di Repubblica. Federica, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora, a voi. Tra un attimo parleremo di questa vicenda. Vi leggo solo una frase: volevamo uccidere qualcuno solo per vedere che effetto fa. È quello che Manuel Foffo avrebbe raccontato al PM Francesco Scavo in relazione all'omicidio di Luca Varani, avvenuto a Roma nel corso di un festino a base di droga e alcol. Ne parliamo con Federica Angeli, ma lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: nel giorno del vertice tra Europa e Turchia sui migranti, vi abbiamo raccontato il confine tra Grecia e Macedonia, 13.000 persone sulla frontiera. Intanto il premier turco Davutoglu dice: siamo pronti ad essere un membro dell'Europa. Forse oggi arriveranno in Italia i corpi dei 2 tecnici italiani uccisi in Libia. Il presidente del Copasir Stucchi a Radio 24 dice: convocheremo Renzi su questa vicenda e anche sull'ipotesi di intervento nel paese. Volevamo vedere come uccidere qualcuno, il racconto di uno degli assassini del ragazzo di 23 anni a Roma durante un festino. Dobbiamo avere fiducia nel nostro paese e le risorse per farcela, lo dice il presidente Mattarella alla consegna dei premi Leonardo per il Made in Italy. E veniamo dunque ad una vicenda di cronaca. Luca Varani, 23 anni, raggiunge per una serata e per una specie di festino 2 amici in un appartamento del quartiere Collatino, siamo alla periferia di Roma, e là viene ucciso, letteralmente massacrato. I dettagli che stanno emergendo su questa vicenda sono terribili. Saluto Federica Angeli, che è una cronista di Repubblica, la saluto di nuovo, a dire il vero l'abbiamo già sentita prima del traffico. Federica, eccoci di nuovo. Eccoci. Eccoci. Allora, i dettagli inquietanti sono quelli che stanno emergendo in realtà dalle confessioni dei due assassini, no? Esatto, guarda, è un delitto di quelli che a Roma non si vedeva dai tempi di Aral, il ragazzo che uccise i genitori li fece a pezzi e li chiuse in un sacco della spazzatura per poi buttarli. Mi ha molto inquietato, diciamo, lo sviluppo dell'omicidio, perché prima si sono appunto sballati con cocaina, alcol e questo mix sicuramente ha come dire enfatizzato poi tutto quello che è avvenuto dopo. Questo ragazzo è stato prima seviziato con una lama, difatti dalla un primo esame del medico legale mostra appunto delle ferite d'arma da taglio leggere, poi quella finale al cuore è più profonda. Poi l'hanno presa a martellate, poi hanno cercato di soffocarlo con una corda. Ecco, una vera e propria tortura prima di arrivare appunto alla morte di questo giovane. Quello che stupisce è che i protagonisti, gli assassini, diciamo, sono due ragazzi fuori corso, studenti di legge. Non parliamo di banditi, non parliamo di criminalità organizzata, ma parliamo cioè di un delitto. Due ragazzi normali, due ragazzi normali sostanzialmente. Sì, normali, no? Cioè alla luce di quello che hanno fatto, evidentemente sembra un no, eufemismo, chiaro. Però voglio dire, non avevano precedenti, non erano ragazzi di strada, si vivevano comunque in una borgata, perché con Latina è periferia, ma questo non è indicativo di nulla. Studiavano legge, quindi la legge, capisci? Mi sembra che emerga dalle confessioni che vengono rese in queste ore ai magistrati e che filtrano via agenzie, via quotidiani, mi sembra di capire che ci fosse addirittura premeditazione in tutto questo, appunto la volontà di uccidere per vedere l'effetto che fa. Esatto, e questo rende agghiacciante ancora di più la questione, perché uccidere, ora l'attenuante sicuramente, già immagino il processo dell'uso di stupefacenti naturalmente sarà utilizzata in sede processuale, ma che ci sia una premeditazione, vieni ti aspettiamo stasera, ci si diverte, questo è l'SMS che uno dei due killer ha mandato a questo ragazzo, è indicativo già di una strategia, cioè volevano comunque provare questo. In una fase iniziale, nella prima confessione, il ragazzo che ha deciso di costituirsi insieme al padre e all'avvocato aveva dichiarato in realtà c'è sfuggita di mano la situazione, volevamo solo giocare e divertirci. Adesso invece sta emergendo proprio una premeditazione, il gusto di uccidere, e questo fa paura, insomma. Ovviamente. Ti ringrazio. Grazie Federica Angeli, grazie a voi, cronista di Repubblica, per essere stata con noi, e saluto e ringrazio per averci raggiunto Maria Antonietta Troncone, che è il procuratore capo di Santa Maria Capua Vetere. Buongiorno procuratore, benvenuta. Buongiorno. Allora, per parlare invece di un'altra vicenda di cronaca, ma di tutt'altro genere evidentemente, e parliamo di una vicenda di tangenti, trattiamo dell'arresto del sindaco di Maddaloni, siamo in provincia di Caserta, Rosa De Lucia. Nella vostra ipotesi, nell'ipotesi accusatoria, che cosa avrebbe fatto la De Lucia, procuratore? Secondo l'ipotesi accusatoria vi è stato un accordo corruttivo tra il sindaco e il titolare di una impresa specializzata per l'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani per ottenere proroghe continuative del servizio trimestrali e ancora per ottenere poi un comportamento di favore ai fini della previsione di clausole favorevoli per poi ottenere l'aggiudicazione del bando quinquennale relativo, quindi, al medesimo servizio. Quindi procuratore, un classico schema per così dire, insomma, no? Cioè la concessione, sì, di lavori e di appalti in cambio di denaro, addirittura secondo denaro e vari favori. Denaro e vari, cioè c'è anche una perché c'è anche monetizzabili, ovviamente. Perché c'è anche una vacanza, no? Una vacanza ad Antibes. Quindi si tratta comunque, sì, di utilità di natura economica. Certamente. E addirittura, appunto, sempre nell'ipotesi accusatoria, si parla di quasi uno stipendio che avrebbe ricevuto il sindaco. Sì, si parla di una somma fissa intorno ai 10.000 euro al mese, oltre tutta un'altra serie di somme aggiuntive. Senta, procuratore, tra l'altro abbiamo letto che il sindaco in realtà era stato, come dire, era una persona considerata in pericolo, non so se la denuncia sia passata dalla vostra procura, la questione sia passata dalla vostra procura, però era stata minacciata, no? Questo non rileva nel corso dell'indagine, questo elemento è fuori dell'indagine. Sì. Comunque non ha condizionato le sue attività. Sì, dice il suo aggiunto, che immagino sia la persona che sta seguendo, come dire, più direttamente l'indagine, Fucci dice: ricorda la Tangentopoli casertana del 92. Beh, è una sua valutazione in base evidentemente all'esperienza concreta che il collega ha fatto, ma comunque io direi che ogni vicenda ha una sua specificità. Adesso noi ci stiamo occupando di questa vicenda relativa al comune di Mataloni. C'è una possibilità che le indagini vengano estese oltre il comune di Maddaloni, o è una roba, una cosa molto locale, molto localizzata? La vicenda riguarda il comune di Maddaloni, non riguarda altri comuni. La vicenda riguarda appunto il sindaco, questo accordo corruttivo che poi e poi una serie di vicende illecite che comunque hanno compromesso anche l'attività di un assessore e di alcuni consiglieri. E ovviamente dell'imprenditore coinvolto. Quanti sono gli arresti in tutto, procuratore, per chiudere? Sono 5, di cui 2 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. La ringrazio, grazie a Maria Antonietta Troncone, procuratore capo della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Avete ragione gli ascoltatori che mi scrivono al 349-238-6666, perché volete sempre sapere di che partito è il sindaco quando viene arrestato l'assessore. Nella fattispecie il sindaco era di Forza Italia. Ci fermiamo, ci troviamo tra un attimo, c'è la borsa e poi dopo abbiamo un altro paio di cose da farvi ascoltare, a partire dalla morte di un personaggio eccellente che è entrato in tutte le nostre vite, almeno in tutte le nostre vite digitali. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. È cominciato poco fa il vertice straordinario informale dei capi di Stato e di governo europei sull'immigrazione. C'è anche la Turchia. Intanto arriva notizia che il governo greco sta pianificando la costruzione di altri rifugi per migranti che potrebbero accogliere fino a 17.500 persone. Arriveranno forse oggi in Italia i corpi dei 2 tecnici italiani uccisi in Libia. Intanto, a proposito del nostro intervento in Libia, parla il presidente della Commissione Difesa, Latorre, dice le forze speciali sono poche decine e non hanno compiti bellici. Volevamo vedere com'è uccidere qualcuno. È il racconto di uno degli assassini del ragazzo di 23 anni al quale è stata tolta la vita a Roma durante un festino e dopo alcune torture. Dobbiamo avere fiducia, il nostro paese ha le risorse per farcela, dice il presidente Mattarella alla consegna dei premi Leonardo per il Made in Italy. La borsa. Effetto giorno. Non abbiamo veramente più tempo, solo il tempo di sentire Mario Platero con America 24.